Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Chiedo di nuovo scusa per la cattiva qualità della voce, complice il raffreddore. Prometto che non sto somatizzando a livello fisico i problemi del paese e andiamo subito con le notizie. Perché? Perché non ci sono state a segno che era ampiamente attesa la decisione di Moody's, reazioni particolari sui mercati oggi, dopo che ieri in serata è arrivato l'abbassamento di 3 scalini, non poco, del voto sul nostro debito operato questa volta dall'agenzia di rating Moody's. In realtà aveva aperto il via Standard & Poor's, e quella era stata, diciamo, la giornata più significativa. Ci occuperemo chiaramente anche di questo. La borsa però va più che bene, va molto bene a Parigi e a Francoforte, ma va bene anche a Milano. Parigi più 4,23%, Francoforte più 4,70%, Londra più 3,40%, Milano più 3,60%. In particolar modo oggi recupera Fiat. Ora non mi chiedete che cosa è successo di diverso rispetto a ieri e all'altro ieri, in cui Fiat perdeva tantissimo, i dati auto, le matricolazioni, le prospettive. Rispetto a oggi nulla, oggi recupera l'8,2% Fiat Auto e si riavvicina a 4 euro, a 3,96 euro. Fiat Industrial, quindi Fiat camion e trattori, più 6,80% a 5,22 euro, e anche Xor cresce. Cresce però anche Tenaris, più 7%, Pirelli più 6,30%, Unicredit più 6%, Eni più 5,5%, Intesa più 5%, Mediaset più 5%, Saipem più 5%, Banco Popolare più 5, Ubi Banca più 5, e poi il 4,80 lo guadagna Tods, Estima Electronics più 4,30, Luxottica più 4, e Xor, come anticipavamo, più 3,70%. Cioè tutti i titoli che erano calati in questi giorni stanno recuperando. Vista così, e senza, diciamo, che io mi propongo come analista finanziario, è un classico, una classica ricopertura e rimbalzi tecnici su titoli che molto erano scesi, ma ripeto, ve lo dice un ignorante in materia. Terna perde il 2%, Campari il 2% anch'essa, Finmeccanica meno 0,60, euro quota 1,32. I temi di cui ci occuperemo, beh, chiaramente la situazione del nostro sistema bancario, anche perché è arrivato un allarme della cancelliera. Nostro sistema bancario, voglio dire, sistema bancario europeo, non solo italiano, è arrivato un allarme della cancelliera Angela Merkel, che adesso vi anticiperemo. E c'è sempre la vicenda Dexia sullo sfondo, quindi la banca franco-belga. Di fatto l'aiuto, il salvataggio arriverà da Parigi e da Bruxelles, e anche un rapporto di Morgan Stanley sul mondo bancario. Poi parleremo della vicenda Dexia, come ricordavo, anche della lista, lista Falciani, degli evasori fiscali. Ci sono novità interessanti anche su questo fronte, perché perché il giudice di Pinerolo Gianni Reinaud ha archiviato il caso di un presunto evasore, perché la lista Falciani è inutilizzabile, anzi andrebbe distrutta, con immaginabili conseguenze per tutti gli altri procedimenti in corso. Ricorderete che nella lista sottratta dall'informatico Hervé Falciani alla banca svizzera HSBC apparivano, assieme a migliaia di presunti evasori fiscali, cioè gente che aveva i conti correnti in Svizzera, in questa banca, anche 7.000 italiani. Di questo parleremo più avanti. E poi l'inchiesta del Sole 24 Ore nelle regioni italiane ha fatto molto arrabbiare la regione Lombardia, la paginata pubblicata oggi su Sole 24 Ore, che continuerà comunque. La prossima regione sarà il Veneto, ce ne occupiamo con chi sta curando questa inchiesta. Infine, appunto, le tensioni sul fronte bancario, che sembrano in questo momento prevalere rispetto alle preoccupazioni sulla Grecia, o meglio, le cose si tengono. La Grecia continua a essere in difficoltà, addirittura anche nel mantenere le nuove promesse fatte. E ancora ci sono incertezze sullo sblocco di questo prestito. Oggi il paese è bloccato, paralizzato dallo sciopero del pubblico impiego. Comunque, più le banche, devo dire, oggi, che la Grecia, a preoccupare l'Europa e i leader europei. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, poi c'è anche la bacchettata arrivata ieri sera dall'America, dal Ben Bernanke, del numero uno della Federal Reserve, che ha detto: attenzione, voi avete pochi mesi, già Obama su questo è intervenuto, per sistemare la situazione e mettere sotto protezione l'euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, il mercato dell'oro e del petrolio, li raccontiamo ogni giorno. Per quello che riguarda il petrolio, siamo a un leggero rialzo, $77 al barile, oro anch'esso in leggero rialzo, $1634, ma attenzione, oltre all'oro, classico bene rifugio, secondo alcuni studi, potrebbe essere il cioccolato, forse alcuni di voi l'avranno letto nei giornali di oggi, il prossimo bene rifugio. C'è un vero e proprio boom di domanda di cioccolato, che è considerato tuttora un bene di lusso. Praticamente il riscaldamento globale sta mettendo a rischio la produzione in Africa, che è il principale paese produttore al mondo, e c'è un boom della domanda di cioccolato che arriva dalla Cina. La conseguenza sono prezzi da record, e praticamente se Ghana e Costa d'Avorio, che producono metà di tutto il cacao mondiale, non avranno più terreni adatti, diventerà anche il cioccolato un bene rifugio come l'oro. La vicenda europea di Dexia, dal cioccolato a un'altra, dal cioccolato a qualcos'altro. Dexia, i clienti belgi ieri hanno ritirato 300 milioni di euro, è una vera e propria fuga di capitali dalla banca, 300 milioni di euro ritirati in un solo giorno, e non tiene conto dell'operazione online questa cifra. Però il ministro dell'economia francese François Baroin ha detto che già domani arriverà una proposta di soluzione, vi saranno garanzie pubbliche sui finanziamenti, e oggi si è saputo che la Banca Centrale Europea ha prestato mezzo miliardo di euro a una banca europea, non ha specificato quale. Molti pensano che fosse, si trattasse proprio di Dexia, ma ripeto, non c'è il nome. Ripeto, ci occuperemo di Dexia. Questa mattina Deborah Rosciani con Savadanaio si è occupata delle Dexia Credit Hope, gli strumenti finanziari venuti in Italia e che fanno capo alla banca franco-belga. In realtà, oltre a un'esposizione, a mio avviso un po' sconsiderata, nei confronti della Grecia, il 39% degli asset di Dexia erano greci, titoli di Stato piuttosto che altri strumenti, sembra che a travolgere la banca franco-belga sia stata anche una fortissima esposizione nei mutui, famigerati mutui subprime americani, mai messa a bilancio, e che a un certo momento hanno dovuto anche prendere in considerazione e svalutare. Le banche europee. Allora, andiamo con ordine. Un portavoce della Commissione europea dice: la situazione delle banche europee sta peggiorando per la crisi dei debiti e non è più quella che avevamo quando abbiamo effettuato gli stress test. Come dire, gli stress test sono stati effettuati in un periodo in cui le banche erano messe meglio e con diversi tipi di esposizione sul debito. E questa è la prima notizia sulle banche. Poi è arrivata Morgan Stanley, e quindi la banca d'affari americana, che dice: le banche europee potrebbero avere bisogno di attingere capitali freschi, cioè di avere o aumenti di capitale o farsi prestare i soldi, pensate un po', per 140 miliardi di euro attraverso il fondo di stabilità EFSF, quello votato dal Parlamento tedesco la settimana scorsa. Sì, È strano che Morgan Stanley si preoccupi delle banche europee quando lei stessa è in difficoltà. Da inizio anno ha perso il 50% del suo valore, e i CDS, cioè i premi che si pagano come polizza per assicurarsi contro il rischio fallimento di Morgan Stanley, sono in continua crescita. Hanno preso 200 punti in nemmeno una settimana. Ricordo che Morgan Stanley fu salvata dal governo americano, dalla Federal Reserve, nel 2008 con 9 miliardi di dollari. Poi il fuoco incrociato sulle banche europee continua, perché? Perché poi anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto attenzione, ci potrebbe essere bisogno di circa 100-200 miliardi di euro di ricapitalizzazione delle banche europee. E non è un mistero, l'ho detto il direttore europeo del Fondo Monetario Internazionale, Antonio Borges, non è un mistero per nessuno che vi possa essere questo aiuto, e che l'Unione Europea stia già lavorando da settimane a un piano per salvare le banche europee. E poi è arrivato il monito della cancelliera tedesca Angela Merkel. Ha detto la Germania è pronta a ricapitalizzare le banche, che vuol dire che insomma lo farà. Non si capisce perché la cancelliera Merkel debba parlare di una Germania pronta a ricapitalizzare le banche se non ci fosse bisogno di ricapitalizzare le banche stesse. Mi sembra che ce ne sia abbastanza per risvegliare il nostro gufo non raffreddato. Lo so, vediamo se servirà. Alcuni dicono, ma insomma sono numeri che sembrano buttati a caso. No, purtroppo no, nel senso che le stime del Fondo Monetario sono molto simili alle stime di Morgan Stanley e alle stime già circolate, tra i 100 e i 200 miliardi di euro per iniettare liquidità nelle banche europee. La decisione di Moody's, vi arriveremo, insomma, alcuni di voi vogliono sapere se c'è un elemento politico nella decisione di Moody's. Guardate, c'è sempre, ce l'ha spiegato molto bene la numero uno di Standard & Poor's Italia due settimane fa, così come l'ex numero uno di Fitch, c'è sempre la valutazione della situazione politica quando un'agenzia di rating dà il voto all'affidabilità del debito di un paese. È chiaro, anche la politica ha il suo ruolo, non è solo quella, è l'ammontare del debito, le riforme, quant'altro, ma c'è. E ieri sera Moody's ha detto che l'Italia paga le incertezze economiche e politiche che mettono a rischio il raggiungimento da parte del governo degli obiettivi di risanamento del bilancio. C'è, ha scritto Moody's, una crescente incertezza per il governo nel raggiungere gli obiettivi di consolidamento del bilancio. Più di metà delle misure annunciate sono basate su un aumento delle entrate, cioè tasse. I piani sono vulnerabili per elevati livelli di incertezza intorno alla crescita economica in Italia e in Europa. Cioè c'è un'attesa, dice Moody's, molto ottimistica di quello che entrerà nelle casse dello Stato. Allora, ho visto oggi molti festeggiare che il fatto che Moody's dica il default dell'Italia è un'ipotesi remota. Attenzione, cioè, non si può festeggiare se il medico ti dice che è molto remota la possibilità che tu muoia. Bisogna capire che cosa fare rispetto alla malattia che hai. Non è che uno dice, vabbè, se non muoio, se è remota l'ipotesi di morire, adesso posso andare avanti. Il default non lo voglio neanche prendere in considerazione per quello che riguarda l'Italia, ed è anche tecnicamente improponibile in Europa. Vorrebbe dire che va a scatafascio tutto, visto che noi rappresentiamo non solo la terza economia europea dell'area euro, ma abbiamo anche il debito che da solo è metà di tutto il debito europeo, ed è in euro. (349) 238 6666 per i vostri sms. Allora parliamo di questo, anche della situazione bancaria italiana e del risparmio, perché del sistema finanziario, scusatemi, italiano, perché oggi la Fondazione Rosselli ha presentato il 16° rapporto sul sistema finanziario del nostro paese. Iniziamo dalle reazioni, perché su Moody's oggi è intervenuta la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che ha detto insomma l'Italia deve cambiare modo di affrontare la crisi, deve recuperare una credibilità molto bassa. Sentiamolo nell'intervento alla 12ª lezione Angelo Costa alla Luis. Noi pensiamo che l'Italia, l'abbiamo detto più volte, deve cambiare la sua, diciamo, il suo modo di affrontare la crisi nella quale si è trovata, diciamo, in modo molto pesante a partire da agosto, deve cambiarlo perché c'è una necessità di recuperare una credibilità che oggi è bassa, e insomma il downgrade di oggi di 3 livelli, dove va detto però che anche Moody's nel parlare del downgrade evidenzia che la solvibilità del debito pubblico italiano c'è, quindi questo va detto, ma ancora una volta evidenzia che questo downgrade è legato a politiche economiche incerti e a una situazione politica complessiva incerta. Si riparla con chiarezza del fatto che da troppo tempo, anche prima vedevo un'agenzia su quello che ha detto il Fondo Monetario pochi minuti fa, cioè che appunto l'Italia cresce troppo poco da 20 anni, cosa che noi diciamo come Confindustria da moltissimo tempo. C'è un problema ovviamente di equilibrio dei conti pubblici da portare avanti, a portare avanti in modo molto chiaro, c'è un problema di tornare a crescere e c'è un problema appunto di come brevemente recuperare credibilità sui mercati finanziari. Così è Emma Marcegaglia. Va detto che oggi il Fondo Monetario Internazionale, oltre ad aver ricordato che l'Europa sta lavorando al piano per salvare le banche, insomma, per mettere liquidità nelle banche, insomma, fino a 200 miliardi di euro è un salvataggio, inutile chiamarlo in altro modo, sempre il Fondo Monetario ha detto: attenzione, anche noi potremmo entrare e sostenere il debito italiano e spagnolo, cioè accanto al Fondo Salva Stati e FSF potremmo comprare debito italiano e spagnolo. Allora, sarà che ho un po' di raffreddore e le notizie sono pesanti, ma c'è chi scrive: mamma mia che pessimista che sei. Io non so se sono pessimista o ottimista, so solo che il gufo l'abbiamo brevettato e lanciato nel 2008, fine 2008, inizio 2009, ed era un modo per essere scaramantici, perché dicevate: ma insomma le vostre prospettive sono sempre nere. Ora io non so dove abita lei, ma mi dica se dal 2009 le cose sono migliorate fino adesso, oppure il nostro più che un pessimismo era quasi un cauto ottimismo, A meno che non vogliamo tornare con la solfa che l'Italia è messa meglio di altri, che la crisi in Italia non c'è stata, che siamo già usciti da una crisi in cui non siamo mai entrati, che abbiamo un grande risparmio privato, tutte cose vere, ma insomma poi i fatti sono quelli che vediamo, non li creiamo noi i fatti, vai. Presidente Andrea Beltratti, che è presidente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo, nonché docente di finanza all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore o presidente. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Scelga lei la carica, non è più tempo per sottilizzare su queste cose, mi sembra. Allora, assolutamente sì, badiamo al sodo. Allora, badiamo subito dalle notizie. Voi oggi avete presentato il 16° rapporto sul sistema finanziario italiano. È emerso più di un elemento interessante, però su questa sta montando il piano di salvataggio delle banche e delle banche europee, al di là della banca di cui lei è presidente del Consiglio di gestione, ma insomma lei lo ritiene inevitabile ormai? Ma io ritengo che le banche europee siano molto diverse tra di loro, che abbiano dei livelli di patrimonializzazione piuttosto diversa e abbiano delle esigenze di liquidità ancora più diverse, e che quindi sia difficile parlare di banche europee nel loro complesso, perché le situazioni sono molto divergenti. Dopodiché esistono certamente alcune banche che hanno un patrimonio forse basso rispetto al loro modello di business, rispetto ai rischi che sono impliciti nei loro bilanci, e effettivamente magari qualche banca può beneficiare di qualche aumento di capitale, di qualche iniezione. Se poi debba essere un capitale pubblico o un capitale privato, questo poi è un altro discorso. Ma insomma, secondo lei il problema più grosso ce l'hanno in questo momento le banche? Perché come paese ce l'ha l'Italia assieme alla Spagna, lasciamo stare la Grecia in questo momento, però quanto a banche europee mi sembra che i problemi più grossi arrivino da Francia e Germania, cioè il fatto che Angela Merkel oggi dica: beh, siamo pronti come governo a dare una mano alle banche, anche le banche tedesche, pronti a ricapitalizzare le banche, sembra favorire la tesi per cui l'esposizione verso la Grecia, ma non solo, delle banche francesi e tedesche le mette un po' in difficoltà. Beh, certamente, le banche tedesche e francesi hanno sicuramente un'esposizione verso alcuni paesi che è piuttosto rilevante, ma allo stesso tempo, e torniamo appunto a quello che stavo dicendo qualche secondo fa, hanno anche una situazione di liquidità strutturale che fa sì che siano piuttosto dipendenti dal mercato, diciamo, all'ingrosso per trovare finanziamenti. Quindi è una combinazione di una situazione di forse scarsa patrimonializzazione rispetto ai rischi del business, ma forse anche e soprattutto di necessità di liquidità. Allora, certamente se aumenta il patrimonio, aumenta il capitale, questo può essere un passo nella giusta direzione, di per sé però non è tale da risolvere i problemi di squilibrio strutturale o di liquidità, per cui si tratta di due aspetti che rimangono concettualmente un po' distinti. Senta, una domanda che riguarda più il professore che il presidente del comitato di gestione, del consiglio di gestione di Intesa San Paolo. Ma allora, ammettiamo che noi mettiamo alta liquidità nelle banche. Molti ascoltatori chiedono, ma insomma, a un certo momento sono tutti soldi che noi leviamo a politiche per la crescita in qualche modo, no? Cioè, se l'Europa o il Fondo Monetario o la BCE mettono soldi per tenere in piedi le banche europee, li levano da qualche altra parte, poi li dovranno ridare. Ecco, fino a quanto può tenere un sistema in cui tu vai a salvare le banche che pensavamo dopo gli stress test essere a posto? Cioè c'è qualcosa che non torna, tu hai i mercati depressi, la crescita economica è in rallentamento e noi usiamo i soldi per salvare il sistema bancario. No, è inconcepibile pensare che ci si trovi di fronte ad una nuova situazione di salvataggio di banche europee, che peraltro, appunto, come sappiamo, in Italia non c'è mai stata, ma c'è stata in altri paesi. Quindi è inconcepibile pensare che i soldi pubblici vengano di nuovo utilizzati per salvare le banche. Le banche meritano un ruolo speciale perché sono un canale importante di collegamento e di finanziamento all'economia reale, quindi per questo devono essere salvaguardate, perché sono veramente un anello essenziale, perché altrimenti le imprese non trovano finanziamenti, è difficile fare impieghi finanziari e così via. Dopodiché, se si conclude che è davvero necessario impiegare altri soldi pubblici per salvare alcune banche europee, beh, questo non può non comportare anche un cambiamento nella governance di queste banche. A questo punto, avendo una quota rilevante di capitale pubblico in questa ipotesi che stiamo analizzando, non possono certo continuare a comportarsi come si sono comportate precedentemente. Quindi bisogna tirare delle debite conclusioni sulla governance, sulle politiche di remunerazione e così via. Oh, traduco per tutti. Una volta che tu chiedi l'aiuto del pubblico, dello Stato, del governo e quindi tutti noi cittadini, però la banca non la puoi più gestire solo, diciamo, con il privato. Se tu chiedi mi aiuto, io devo entrare a salvarti, poi voglio anche avere voce in capitolo, e allora andiamo a rivedere anche come vengono gestite queste banche. Nel caso di Dexia è veramente inconcepibile che loro avessero il 39% degli investimenti in Grecia. Ma dov'è la diversificazione? Adesso apro e chiudo una parentesi. E poi andiamo anche a vedere come vengono dati i bonus ai manager di queste banche, cioè tutto quello che non ha fatto Barack Obama quando ha salvato le banche americane. E no, mi dispiace Beltrate, ma è così, siamo con gli indignati su Wall Street. Banche e imprese, perché poi lei giustamente diceva, attenzione, la banca è l'ingranaggio fondamentale, è l'olio del motore economico. Le preoccupazioni della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sul temuto credit crunch, che secondo quanto ha scritto anche sulle 24 ore è già realtà, e cioè la stretta sul credito, tassi sempre più alti praticati alle banche per dare soldi agli imprenditori. Sentiamo la preoccupazione crescente, appunto, di una crisi di credibilità sui mercati finanziari, lo diciamo sempre ma lo voglio ripetere anche qui, insomma, che ormai ci siano strutturalmente almeno 40 basis point a nostro sfavore dello spread tra BTP Bund e tra bonus e Bund, è un fatto evidente, no? Quindi io credo, lo dico sempre, che la nostra economia, il nostro sistema imprenditoriale e industriale, le nostre banche, la situazione complessiva dell'Italia è migliore di quella della Spagna. Il nostro tasso di disoccupazione, oggi in Spagna c'è un tasso di disoccupazione oltre il 20%, e sulla disoccupazione giovanile c'è un problema enorme, ancora maggiore, ce l'abbiamo anche noi molto forte, ma ancora maggiore in Spagna. Ecco, nonostante ci siano differenze a nostro favore, come dire, nell'economia reale, nella vita reale di tutti i giorni, oggi noi abbiamo meno credibilità sui mercati finanziari di quanto ce l'abbia la Spagna. Quindi questo credit crunch che arriva o rischia di arrivare, questa, diciamo, credibilità sui mercati finanziari che si sta e sui mercati in generale che si sta erodendo, e questa bassa crescita che continua a permanere e che probabilmente peggiorerà l'anno prossimo. Allora, professor Presidente Beltratti, in effetti c'è un tema che veniva toccato, noi molto modestamente lo stiamo dicendo da mesi, Non c'è motivo per cui l'Italia debba avere una valutazione del suo rischio superiore alla Spagna. Non c'è motivo economico, non c'è motivo sul risparmio, non c'è motivo da nessuna parte. È solo, diciamo, la componente di maggiore incertezza e inaffidabilità. Ancora per dirla con Tremonti di ieri, ha detto Tremonti, magari lo facciamo riascoltare se ce l'abbiamo ancora. La Spagna ha annunciato nuove elezioni, questo è il dato. Lei è d'accordo con questa analisi, cioè che non ci sia un motivo economico per cui noi dobbiamo avere degli spread, cioè pagare di più della Spagna per trovare finanziatori per il nostro debito? Ma guardi, dare torto a tutto il grande mercato degli investitori e quindi in sostanza proclamare l'inefficienza del mercato su un tema così rilevante non è mai facile, soprattutto se mi metto nei panni di professore. Certamente io vedo più aspetti positivi nella situazione italiana che anche lei ha citato precedentemente. Rimane il fatto che il debito pubblico dell'Italia è al 120% del prodotto e questo è un ostacolo molto importante e che quindi deve mettere poi nella giusta prospettiva anche i punti di forza relative che noi abbiamo. Però il problema rimane purtroppo. Allora, dopo mi dà anche un giudizio su Moody's, perché poi vorrei parlare anche del vostro rapporto, sì. Però insomma era ampiamente atteso il mercato, guardi, sta chiudendo con un più 4% Milano, più 4,25% Parigi, più 4,70% Francoforte, più 3% Londra, molto bene tutti i titoli che avevano perso in questi giorni, quindi Fiat più 10, Fiat Industria più 7,40, Unicredit più 7%, UbiBanca più 6,20, voi siete più 5,70%. Moody's. Sì, ma diciamo, Moody's ha forse tardato un pochettino rispetto alle attese, perché le attese erano per metà settembre, però certamente non è una mossa in attesa, era stata anticipata in maniera piuttosto ampia. Forse ha sorpreso un pochettino il declassamento così ampio di tre gradini tre di due, come si temeva da parte di coloro che erano più pessimisti. Credo che sia inutile lamentarsi, credo che sia una valutazione fatta sulla base dei loro modelli, può piacere, può non piacere, dopodiché la valutazione c'è e riflette una situazione di difficoltà, credo che dobbiamo impegnarci, rimboccarci le maniche tutti quanti in ambito pubblico e in ambito privato per cercare di rimettere il paese in sesto e per cercare di ridargli quel ruolo che gli compete in ambito internazionale. Professor Bertratti, ma lei quando vede che la borsa, non so, butta giù un titolo come Fiat dell'8-10% per due giorni, poi oggi più 10, ma anche voi come Intesa San Paolo, sono rimbalzi tecnici questi, cioè non è cambiato niente? Certamente c'è una fortissima componente di volatilità, in queste fasi di mercato il numero degli operatori che comprano e vendono a volte tende a diminuire, i mercati sono un po' più sottili, quindi i prezzi possono avere degli sbalzi più elevati del solito. Il fatto che sia un meno, che sia un più, quando la percentuale è 8-10%, dal mio punto di vista è ugualmente preoccupante, perché comunque la volatilità è simmetrica e quindi che sia meno che sia più indica che si è un po' perso la bussola, un po' perso la direzione. Credo sia opportuno invitare tutti alla calma, alla riflessione e guardare veramente più al medio lungo periodo che soltanto al mese successivo. Sebastiano Cabotto, giusto per citare un mio omonimo, questo è piccolissimo cabotaggio, professore, si va proprio a naso a giorno per giorno, altro che i grandi scenari. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, pubblicità e poi altri punti del rapporto, del sedicesimo rapporto sul sistema finanziario italiano. 17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, una risposta e poi la domanda ad alcuni ascoltatori. Molti vogliono sapere del salvataggio delle banche. Il gallo non lo metto, perché è vero che oggi la borsa ha guadagnato il 3,94%, però da inizio anno siamo ancora a un meno 30% quasi, e con le sberle degli ultimi giorni, abbiate pazienza, il gallo deve avere anche lui una sua consistenza. Il debito non l'ha fatto questo governo, se l'è trovato, sì e no, cioè il nostro debito viene accumulato negli anni 80 e poi 90, però andate a vedere come si muove il nostro debito, anche chi ha governato in questi anni ha accumulato debito, non c'è niente da fare, e l'avanzo primario si era cancellato, per cui la risposta è sì e no. Allora, professor Bertratti, la cosa interessante del vostro rapporto, voi notate come le banche e anche le imprese italiane hanno saputo in questi 10 anni fronteggiare la concorrenza internazionale e si sono internazionalizzate, però voi dite non c'è stata una penalizzazione delle imprese, o cioè il credit crunch, non avete stretto i rubinetti verso le imprese, che va contro quello che dicono le imprese molte volte. Dunque, anche questa è quello che è stato scritto dai ricercatori che hanno lavorato, sì, certo, certo. Quindi io non ho lavorato direttamente, quindi no, non è il suo pensiero, diciamo, certo. diciamo di quello che è stato detto. Beh, hanno rilevato che nel campione da loro analizzato il credito non è sembrato mancare e anche i tassi sono stati relativamente contenuti, ma soprattutto c'è stato un legame fra produttività e costo degli impieghi, con un aumento del costo del denaro per le aziende meno produttive, che in un certo senso, dato che il sistema bancario serve anche appunto da allocatore efficiente di capitale, questo è quello che è l'ambizione di essere, quello che dovrebbe essere, beh, questo è un segnale confortante in termini allocativi, quindi in termini di capacità di indirizzare il capitale nelle giuste direzioni. Poi certamente cosa sarà nel futuro, le condizioni adesso sono considerevolmente più complicate. Allora, professor Beltratti, visto che appunto lei fa anche il presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo, però insegna, vuole dare lei una nota ottimista sul futuro, positiva sul futuro, visto che io non gliela faccio, cioè nel senso... la prospettiva sulle tensioni sulle banche europee, tutto quello che vogliamo, insomma, lei alla fine è fiducioso che il sistema terrà, la Grecia resterà nell'euro, le banche non avranno bisogno di essere nazionalizzate, come la vede? Ma no, perché io devo trovare qualcuno che sia più positivo di me, per cui sto cercando disperatamente. Sempre tendenzialmente positivo e sempre tendenzialmente ottimista, dopodiché non nascondo le difficoltà, perché le cose che lei dice sono oggettive e quindi non è che si può semplicemente alzare le spalle e sperare che le cose miglioreranno. Credo che la chiave sia sicuramente a livello di politica europea cercare di avere un piano che sia effettivamente credibile, che soddisfi una volta per tutte le attese degli investitori, in modo tale da ridurre questa avversione al rischio che invece è costantemente aumentata da un po' di mesi a questa parte e comporta ormai problemi non soltanto in Europa ma anche negli Stati Uniti e persino nei paesi emergenti, perché questo livello di avversione al rischio molto aumentato ha fatto scappare gli investitori poi anche dai paesi emergenti, che da un po' di tempo a questa parte hanno deflussi di capitale invece che afflussi di capitale forti. Cioè non mettono più soldi nell'area euro e nell'Italia? Non soltanto, ma addirittura anche si è notato come persino Brasile o la Turchia o altri paesi che prima diciamo temevano di avere un eccesso di afflussi di capitale, una rivalutazione troppo forte delle loro monete rispetto all'euro e rispetto al dollaro, negli ultimi 3-4 mesi a seguito di questo shock all'avversione al rischio che ha comportato un aumento di prudenza da parte di tutti gli investitori, beh, loro stessi hanno visto ridurre in maniera importante questi afflussi di capitale, le loro valute indebolirsi e le loro borse cadere. Quindi ormai il problema è diventato veramente planetario e coinvolge un po' tutti. Quindi io credo che l'Europa debba dare una risposta che secondo me non deve essere una risposta di ingegneria finanziaria, di contabilità o così via, deve essere una risposta reale, realistica, che magari potrà prevedere un periodo con una crescita un po' bassa nel futuro, ma che deve guardare veramente ad un obiettivo congiunto europeo, che è quello di stabilizzazione dei conti e di ristrutturazione diciamo dell'economia e riduzione del livello del debito rispetto al prodotto, che certamente non sarà facile da raggiungere e potrà essere fatto soltanto nell'ambito di misure che rispettino la coesione sociale, facendo pagare un po' a tutti i costi dei Senta, sulla Banca d'Italia, sulla Banca d'Italia lei insomma, è secondo lei un altro elemento in cui stiamo perdendo la faccia? Non credo che è un elemento su cui stiamo perdendo la faccia, è una situazione in cui c'è un dibattito fra candidati che sono tutti eccellenti, con un record eccellente passato, e quindi certo sarebbe più opportuno probabilmente risolvere all'interno e in tempi rapidi tutte le possibili discussioni, cercando di evitare pubblicamente, dopodiché mi sembra che appunto in democrazia le opinioni varie siano comunque sempre benvenute, l'importante è avere un'azione efficace che alla fine ricongiunge le varie posizioni e prende delle soluzioni poi unitarie, rapide ed efficienti. Io penso che alla fine questo si farà. Ah beh, prima il governatore dobbiamo farlo, non è che possiamo restare senza. Grazie professor Beltratti, l'ho trovata molto cauto, questo comunque è un segnale anche per me, vuol dire che... È un segnale positivo, lo dico così. Così la smettiamo di dire che è questo programma che crea i problemi economici al paese. Grazie, grazie a lei, al professor Andrea Beltratti, che è anche presidente del Consiglio di Gestione di Intesa San Paolo. Addirittura sto beccando gli insulti di chi dice che sto proteggendo il governo per quello che ho detto sul debito pubblico. Allora, è vero che il governo Prodi aveva ridotto il debito pubblico, c'era una fase anche di crescita economica più forte e soprattutto aveva portato all'avanzo primario, e cioè che è ritornato quest'anno, e cioè le entrate sono maggiori delle uscite prima di pagare gli interessi sul debito. È vero che dal 2008, cioè, adesso, essere anche accusato di difendere il governo, veramente, che dal 2008 il debito è continuato a crescere, così come la spesa corrente, che mi preoccupa di più, cioè la spesa pubblica, gli 800 miliardi all'anno, non si riesce a ridurla, quella è passata dal 106% del PIL al 120% del PIL, e non so perché qualcuno mi dica, ma lei di notte come fa a dormire? Poi c'è un consiglio bellissimo: ma lei oggi non poteva marcare visita, la sua voce trasmette depressione. A parte che marcare visita per un raffreddore mi sembra ignobile, e vabbè, vorrà dire che avremo la voce che d'ora in avanti somatizza l'andamento della borsa. Allora andiamo col traffico, perché la chiusura è stata eccellente, più 3,94%, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora la borsa oggi più 10% Fiat, più 7,40% Fiat Industrial, più 7,20% Pirelli, più 7% Unicredit, più 7% anche Tenaris, più 6,20% UbiBanca, più 5,80% Eni, più 5,70% Banca Popolare, più 5,70% anche Intesa. Il 5,30% lo guadagna Mediaset, il 4,90% Estima Microelectronics e anche Saipem, il 4,5% Todds e il 4% A2A. Perde Terna il 2,5%, Campari l'1,70%, Finmeccanica meno 0,60%. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, vabbè, rimbalzo tecnico, ci salutiamo? Sì, rimbalzo tecnico, ci salutiamo ridendo oggi. No, dimmi, perché mi sembra che altre motivazioni, se c'è qualcosa che mi è sfuggito, complice il raffreddore, sono pronto a chiedere venia, ma insomma la Fiat ha perso per due giorni, ha preso botte, oggi recupera. È cambiato qualcosa nel settore auto? Di notizie non ce ne sono assolutamente state, c'è un rimbalzo tecnico, l'unica cosa che ovviamente sale è la volatilità e il nervosismo. Quest'oggi ovviamente si è tornati a scommettere sull'eventualità che innanzitutto si è lanciato un piano salva banche a livello europeo, lo ha fatto capire Olli Rehn questa mattina e nel pomeriggio la Merkel, e quindi questo ha fatto tirare un po' un sospiro di sollievo. Ieri ricordiamo che erano proprio le banche vendute a piene mani, insieme ovviamente anche ai titoli del comparto auto. In più si è tornati a scommettere soprattutto su un taglio dei tassi di interesse. Domani ricordiamo che si riunisce il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, l'ultimo presieduto da Jean-Claude Trichet, e c'è chi scommette che appunto il presidente lasci con l'annuncio di un taglio dei tassi rispetto all'attuale livello dell'1,5%. Quindi taglio dei tassi e ipotesi sempre più forte che le banche europee verranno salvate dai soldi dei contribuenti europei e uno va a comprare banche. Vediamo se questo ragionamento regge domani. Pirelli segue chiaramente il comparto auto, Tenaris e anche lì tutto il settore energetico va molto bene. Vanno bene anche i titoli del lusso, ma Mediobanca oggi ha consigliato cautela, perché il lusso è stato molto altalenante in queste settimane, prima molto bene, poi in frenata e poi di nuovo in recupero. Sì, oggi è uscito un interessante studio di Mediobanca sul comparto del lusso italiano e del lusso in generale, e gli analisti della banca d'affari hanno notato che i titoli sono cresciuti molto più del mercato in genere, tenendo presente l'alta redditività delle aziende del lusso, quotano rispetto ad altri settori con un premio che storicamente si aggira attorno al 55%. D'altra parte, nell'ultimo periodo, proprio perché i titoli del lusso hanno continuato ad andare bene contro l'andamento invece negativo del mercato, questo premio si è portato fino al 100%, che gli stessi analisti di Mediobanca definiscono ovviamente eccessivo. D'altra parte ci sono dei titoli che comunque hanno buoni fondamentali, ad esempio loro puntano l'indice soprattutto su Luxottica e su Ferragamo. È certo che in borsa non potevi che puntare l'indice, no? Allora, andiamo avanti. Rizzoli, Corriere della Sera. Oggi c'è stato molto movimento sul titolo RCS e qui abbiamo notizie. Sulle risparmie è il secondo miglior titolo, più 19,48%, e anche sulle ordinarie più 16,90%. Che succede? Cosa succede è difficile da dire, visto che si scommette soprattutto su cosa succederà, cioè si scommette sul fatto che Diego Della Valle, soprattutto dopo l'uscita dal patto di Mediobanca, voglia incrementare la propria quota in RCS. Sono supposizioni che circolano sul mercato, ma che fanno infiammare i titoli che, ricordiamo, sono facili da far muovere, visto che non hanno una grande liquidità. Comunque, in più, anche l'imprenditore Rotelli, che è già presente nel capitale, ha lievemente arrotondato la propria quota, ha investito oltre 1 milione, una cifra da poco ovviamente per l'imprenditore, e d'altra parte è un gesto simbolicamente importante, a dimostrazione che l'attenzione su RCS continua a rimanere alta. Grazie, allora Michele, Radio Corriere sulle 24 ore, il peggior titolo FUSIX, meno 9,70%, Ceramiche Ricchetti, meno 6,50%, e adesso restiamo in tema di banche, ma di una banca che ne sta creando di problemi, soprattutto a Parigi e a Bruxelles. La banca si chiama Dexia. Eh sì, perché in Belgio, dove avevano appena fatto tempo a festeggiare l'assenza del governo e il miglioramento della situazione economica, invece ieri i clienti della banca Dexia sono andati a ritirare i soldi, 300 milioni di euro ritirati ieri, oltre a quelli ritirati con l'operazione via internet. Il ministro dell'economia francese François Baroin dice: già domani arriveremo a una soluzione, ma visto che Parigi ha il 6% di questa banca, Bruxelles ha un altro 6%, probabilmente la soluzione sarà l'aiuto finanziario a questa banca da parte dei governi. Fabio Pavesi del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora Fabio, abbiamo 10 secondi, tra 40, vabbè, poi ne parliamo dopo. Velocissimo. Non ce la puoi fare neanche volendo. Però dimmi solo sì o no, poi ne parliamo dopo il GR. Certo. La Vulgata vuole che Dexia sia messa in queste condizioni perché aveva investito quasi il 40% di tutti i suoi asset sulla Grecia, complimenti alla lungimiranza. È solo per questo motivo sì o no? No, in realtà questa è solo apparenza dal nostro osservatorio, cioè è vero, Dexia come altre banche è fortemente esposta su Grecia, però non più tanto di altre. Il vero problema di Dexia è un altro, che Dexia si è tenuta dalla crisi Lehman in portafoglio una serie di asset, ricordati su Prime, gli ABS, i CDO. Ecco, aveva un portafoglio sproporzionatissimo, valeva 125 miliardi l'anno scorso, è sceso 95 a giugno di quest'anno, ma 95 miliardi di portafoglio con bond senza reti, mutui subprime, ovviamente è una mina vagante. Quindi il vero tema è quel portafoglio lì, che non è mai stato ridimensionato a sufficienza. Adesso ne parliamo, anche perché ci sono molti anche risparmiatori che hanno comprato, e sentiremo cosa è stato detto oggi da Deborah Rosciani a Salvadanaio. 349-238-6666, prima però il GR, questo era il numero chiaramente per i vostri SMS. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Fabio Pavesi, per concludere su Dexia, e tra l'altro adesso vi faccio anche ascoltare un passaggio di quello che è emerso questa mattina con Deborah Rosciani a Salvadanaio, perché ha intervenuto il direttore finanziario di Dexia Credihop. Tu ci stavi dicendo, sì, c'è l'esposizione verso la Grecia della banca franco-belga, che insomma ha perso il 30% ieri, sta per essere salvata dai due stati, ma ci sono anche tutti gli investimenti in mutui subprime e altri strumenti non messi a bilancio, non svalutati correttamente? Sì, il tema è questo, perché Dexia chiudeva inutile fino a giugno 2011. Improvvisamente, lì si è capito che la situazione era pericolante, a giugno dichiara una perdita di 4 miliardi solo su quel portafoglio lì, cioè la banca ha chiuso con un buco di 4 miliardi, che non sono briciole, solo per aver iniziato a svalutare quel portafoglio da 95 miliardi. Tanto gli analisti sostengono che lì dentro ci sarebbero perdite ulteriori, lo dicono gli analisti di Goldman Sachs, per altri 8 miliardi. Dexia ha un capitale di 14 miliardi, fate un po' voi i conti. È ovvio che se tu cominci a toccare quella roba che non aveva prezzo, che era congelata, e la porti a valore di mercato, ti mangi tutto il patrimonio. Capito questo, ovviamente si è corso ai ripari, nel senso che lì la soluzione è ovviamente portare via la parte di retail e commerciale dalla parte malata, cioè la bad bank serve proprio a isolare, come dire, questa divisione della banca che ha grossissimi problemi, per evitare il contagio sulla parte sana, perché le altre divisioni della banca, compreso il Credit Hope in Italia, in realtà vanno bene, cioè lì non c'è un problema di la fuga anche della clientela, come dire, andrebbe un po' sdrammatizzata, è ovvio che avviene perché la gente si prende paura. Però se tu separi questo bubbone malato che era lì dal 2008 e in qualche modo la banca dovrebbe farcela, ovvio che ci vorranno soldi pubblici ancora, dopo averne già messi per 5 miliardi Francia e Belgio nel 2008 dovranno metterne altrettanti. Il vero problema è che ancora una volta gli stati corrono in soccorso di una banca, la Banca Europea, ed è un altro salvataggio a 3 anni di distanza dal crack Lehman. Sì, io sono d'accordo con te, cioè non c'è nessun allarmismo, anche perché appunto sia Parigi che Bruxelles già hanno detto che entro brevissimo, forse già stasera arriverà il piano, però il dubbio viene da chiedersi, insomma, se a distanza di 3 anni ancora non avevi messo a bilancio investimenti che andavano svalutati, non avevi svalutato investimenti che andavano svalutati, ecco, il dubbio, ce ne sono altri in giro, e questo viene a tutti. Esatto, il tema vero è proprio quello. È quello lì, anche perché oggi è la giornata in cui dalla Angela Merkel, la cancelliera tedesca, al Fondo Monetario, alla Banca Centrale Europea, tutti si sono affrettati a dire che sono pronti, che ci vogliono tra i 100 e i 200 miliardi di euro per mettere soldi freschi nelle banche europee, capisci bene che... Sì, lì c'è anche il tema di Basilea 3 che sta interferendo, nel senso che se tu devi aumentare il capitale per Basilea 3 al 2019 e lo fai nel momento più critico della crisi, ovvio che crei un ulteriore problema. Però è vero, cioè il tema rimane sul tavolo, è sempre quello della leva finanziaria delle banche. Cioè quando tu hai banche in Europa, e parlo più delle straniere che delle italiane, che hanno capitale pari al 2% del totale delle attività della banca, basta che tu svaluti quell'attivo di un 2% e ti sei mangiato l'intero capitale. Questa, se volete, è una cosa semplicistica da dire, ma la sintesi estrema è questa qua. Cioè tu non puoi lavorare avendo così poco capitale a fronteggiare attività cresciute nel tempo. Il problema è che sono mai sgonfiate dopo Lehman, quello è il grave errore dei banchieri, soprattutto del nord Europa, che hanno tenuto banche con questa leva assolutamente alta. Ed Dexia è l'esempio più eclatante, perché un portafoglio di 95 miliardi su 500 di attività della banca è un portafoglio mostruoso e ovviamente rischioso, e si è visto, e l'hanno tenuto coperto finché hanno potuto, ma a giugno hanno rivelato che c'erano dei problemi con quella maxi perdita, lì è scattato il campanello d'allarme. Un po' il sospetto che le banche si fossero rimesse a fare quello che facevano prima del 2008 l'avevamo avuto anche noi, a guardare soprattutto i bonus che si erano distribuiti ai manager bancari, in particolar modo alle banche estere. Grazie a Fabio Pavesi, e vorrei continuare a parlare di banche, lo facciamo fra un attimo anche con il professor Franco Bruni, prima però un'inchiesta, mi fate sentire che ho Bruno in collegamento, no, appunto un'inchiesta che sta suscitando una reazione fortissima da parte della regione Lombardia, è la prima delle inchieste del Sole 24 Ore nelle regioni italiane, i conti delle regioni italiane, la prossima sarà il Veneto, si è iniziati oggi con la regione Lombardia. E visto che però parlavamo di investimenti di banche e di Sole 24 Ore, ricordo che domani esce anche Casa 24 Plus, quindi le informazioni sul mercato immobiliare e anche il focus su Madexpo, che oggi ha aperto i battenti, le nuove frontiere nelle costruzioni. Ma insomma, qui la reazione di Roberto Formigoni della Regione Lombardia è durissima. Scrive sul sito la Regione e anche sul sito del Governatore: dal Sole 24 Ore, vecchia spazzatura, a seconda del vento orzano la barca. Che grossa contraddizione, è un attacco durissimo all'articolo, per cui dice o il direttore napoletano si affida ai giornalisti per fare clamore, oppure sono giornalisti che non sanno come raccogliere le informazioni. Mamma mia, Che cosa avranno mai scritto Mariano Maugeri e Giuseppe Oddo oggi su Sole 24 Ore? Hanno scritto che le indagini della Corte dei Conti sull'Agenzia per il Lavoro e anche la vicenda del San Raffaele fanno dire che il Pirellone della Regione Lombardia ha trasferito all'esterno la gestione di posti chiave dell'amministrazione con sempre un maggior numero di appalti, affari e fuori dal Pirellone e pochi controlli. Mariano Maugeri, buonasera. Buonasera a voi. Ti conviene restare a Venezia e non tornare più in Lombardia, se va avanti così, perché non so cosa potrà succederti. Ma insomma, qual è la cosa, secondo te, che ha fatto più arrabbiare Formigoni, con cui non abbiamo chiamato, perché non voglio un contraddittorio di questo tipo? Cioè, insomma, vediamo, poi la risposta mi sembra talmente veemente che prelude, cioè impedisce qualunque contraddittorio. Prego. È un sistema di accentramento dei poteri. E un po' si diceva anche in Veneto, visto che sono a Venezia, negli anni 90, no? Quando si sosteneva a gran voce la causa del federalismo, e molti veneti dicevano, beh, però corriamo il rischio che si corre è quello di sostituire al centralismo di Roma il centralismo di Venezia. Ecco, in Lombardia è successa la stessa cosa, cioè al centralismo di Roma si è sostituito il centralismo di Milano, con compiti ovviamente centrati dentro la regione attraverso il controllo diretto di tutta una serie di società partecipate. Penso che questo abbia dato fastidio anche perché lì abbiamo colto un paradosso: il cavallo di battaglia, la parola chiave della Compagnia delle Opere, dei DCL, la sussidiarietà, cioè trasferire tutti i poteri alle istituzioni, agli enti locali più vicini ai cittadini, cioè cosiddetta si chiama di prossimità. Ecco, in questo caso invece proprio gli uomini della Compagnia delle Opere, di CL, che sono vicini al governatore, hanno applicato il modello inverso, cioè hanno accentrato le funzioni e anche la distribuzione dei denari, per esempio il voucher per la scuola o per altre funzioni che distribuisce direttamente il Presidente della Regione alla Regione in prima persona. Quindi in qualche modo è un cambiamento di paradigma, di modello. Penso che questo abbia dato fastidio, però è una cosa evidente che tutti conoscono, sì, in Lombardia, quindi insomma. Allora, sì, voglio dire, non penso che uno si possa irritare, visto che Formigoni da sempre è un esponente importante di CL, di Comunione e Liberazione. Da sempre sappiamo che uomini e personaggi, non c'è nessun reato in questo, non c'è nessuna critica. Uno può essere scritto a CL, può essere scritto a Testimoni di Geova, può essere scritto a che cavolo vuole. Sì. Basta non prendersela se poi non ti dice che ci sono molti Testimoni di Geova nella tua giunta, o ci sono molti amministratori che fanno capo al mondo di CL. Cioè, non vedo niente di male. Non è che CL ci occupiamo solo quando dobbiamo coprire il meeting di Rimini, lì va bene, e però se poi parli di CL in un altro modo non va bene. È la guerra. Però dimmi una cosa, il punto però mi sembra un altro, Mariano, magari mi rispondi dopo il traffico. E cioè, voi avete detto, attenzione, in outsourcing sono state trasferite all'esterno sempre più gestioni e funzioni, la sussidiarietà appunto, con pochi controlli, però non rispettando il principio di stare più vicino al territorio ma invece accentrando. Tutto questo però potrebbe essere anche così, passare in cavalleria, essere in secondo piano, se questo avesse portato una maggiore efficienza. Cioè, alla fine, mi sembra di poter dire, e non voglio difendere in questo momento la Regione Lombardia, ma che lo scopo doveva essere rendere più efficiente. Cioè, io appalto fuori quello che da fuori si fa meglio, magari in maniera più efficiente, magari anche in maniera più vicina sul territorio. Cioè, questo vorrei capire, se poi a livello di efficienza sui conti e di risparmio sui costi ha dato i suoi risultati. Dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri SMS. Eccolo lì, ce lo sapevo, come dicono a Roma, che qualcuno avrebbe scritto: ecco, voi continuate la guerra di Confindustria contro il governo, mamma mia. Mamma mia. Allora, stiamo parlando della prima puntata del Sole 24 Ore sui conti delle regioni. Si parte dalla Lombardia e si arriverà, me lo conferma Mariano Maugeri, a tutte le regioni del sud anche, non è che è una cosa nel Lombardo-Veneto, giusto Mariano? No, infatti, ecco, tutte le regioni. Campania e Sicilia, non tutte, sono sei regioni che abbiamo scelto. Per cui al sud ci sono Campania e Sicilia, ne vedremo delle belle anche lì, immagino, da quello che abbiamo letto. Allora, tornando al punto. dire che la gestione della Regione Lombardia è stata effettuata esternalizzando verso personaggi spesso vicini a Comunione e Liberazione le attività è dire una cosa da molti nota, o per molti nota, ma che non necessariamente va a toccare la buona o cattiva gestione. Io voglio sapere, è chiaro che l'articolo ho letto, ma lo devi dire tu, se poi c'è stata un'efficienza, perché obiettivamente molti, anche dei vostri intervistati, difendono la gestione dicendo attenzione, il sistema sanitario, la gestione del sistema sanitario lombardo viene riconosciuta come un sistema sanitario, come una gestione efficiente, lo dice anche, se non ricordo male, Longo, no? Come uno dei vostri intervistati. Bravissimo. No, la cosa simpatica è che la Regione ci contesta di non aver attinto a fonti autorevoli, cosiddette autorevoli. Noi invece abbiamo attinto, e come, a fonti autorevoli. Abbiamo parlato col Bocconiano, appunto più esperto in materia sanitaria, che è questo professor Longo, capo del CERGAS, un centro studi che studia la spesa sanitaria, e lui ha detto che il modello sanitario lombardo è un modello efficiente che contribuisce in modo determinante a far sì che l'Italia sia al secondo posto al mondo dopo la Francia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi primo punto, da qui si capisce che non c'è nessun pregiudizio, ci mancherebbe, ma ci sono dati di fatto. Sull'altro aspetto invece, andando oltre alla sanità, anche se poi gli sprechi ci sono anche nella sanità, e noi citiamo il caso della tessera sanitaria che avrebbe dovuto, come dire, portare i cittadini lombardi a livello di quelli nord europei con un sistema informatizzato, in realtà abbiamo scoperto che ci sono stati spesi da Lombardia Informatica, una delle partecipate appunto della regione, 1,5 miliardi in 10 anni, e la tessera sanitaria adesso serve ai lombardi per comprare le sigarette al distributore automatico, perché come sai sotto i 18 anni i distributori automatici non danno più le sigarette, ma sono errori che possono accadere dovunque. E a proposito di partecipate, oltre a Lombardia Informatica c'è anche Fillombarda e Lombardia Infrastrutture, che è una holding attraverso la quale poi si costruiscono i nuovi ospedali in Lombardia. Che questo sia un lavoro da Regione Lombardia, è discutibile secondo noi. Altra cosa curiosa che abbiamo scovato è che Finlombarda, malgrado non sia citato da nessuna parte, e c'è una carenza di informazione gravissima in alcuni aspetti di gestione, ecco, Finlombarda gestisce la tesoreria per il pagamento ai fornitori della sanità. Anche questa, la Lombardia, anche in questa, è l'unica regione italiana ad avere una tesoreria centrata in una società controllata al 100% dalla regione, quindi con uomini molto vicini a Formigoni. Sarebbe bene che, fatta questa scelta, si dessero le informazioni conseguenti ai cittadini lombardi. Quanto è stato risparmiato sulla spesa sanitaria grazie a questo accentramento? Non è dato sapere. Di più, abbiamo chiesto un'intervista all'assessore al bilancio della Regione Lombardia e il suo addetto stampa, dopo una prima telefonata in cui diceva sicuramente domani lo intervisterete, poi quando lo cercavamo riattaccava il telefono. Ecco, se questa politica, come dire, in comunicazione è all'altezza della prima regione italiana con 9,9 milioni di abitanti e un quinto del PIL nazionale, lascio a voi giudicare. Allora, io dico, è chiaro che insomma i giornalisti fanno le inchieste, va nelle pagine di commenti inchieste questo vostro viaggio nelle regioni, ed è giusto che l'interlocutore abbia la possibilità di replicare, di fornire dati, quant'altro. Quello che obiettivamente di cui non ci si può lamentare è che se tu questi dati non li fornisci, poi non ti puoi lamentare che c'è una vecchia spazzatura e a seconda del vento orzano la banca, le loro fonti ufficiali, che è il comunicato durissimo della Regione Lombardia. Ancora, per cui tu mi stai dicendo che sul fronte sanitario, che poi è la spesa principale in mano alle regioni, parliamoci chiaro, sul fronte sanitario non si riesce a capire se questa organizzazione, che per quello che mi riguarda il mio giudizio è neutro, cioè uno lo organizza come vuole, magari hanno fatto benissimo a assegnare a Finlombarda anche la gestione della tesoreria dei fornitori della sanità, però tu dici non si riesce a capire se questo ha portato un'efficienza oppure no. Esattamente. Esattamente, questo non viene comunicato, tantissime cose, le notizie sulle partecipate non vengono comunicate, questo penso che sia gravissimo, visto che la Regione Lombardia appartiene a tutti i cittadini lombardi, come dire, siamo noi, poi certo. Paghiamo le tasse. Allora, mi dici in quali altre regioni andrete, così rispondo anche a alcuni ascoltatori? Tu Veneto, e Oddo ormai... Emilia, io e Giuseppe Oddo, certo. Ci mancherebbe. Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia. Quindi una del governo, una del PDL e una del PD. Sto facendo il calcolo, no, forse un po' di... perché Campania... Sì. No, la Campania certo, è PDL, adesso anche il Veneto è PDL, quindi sono penso No, perché qui scrivono mandata a farla in Emilia, andranno a fare in Emilia e vedremo cosa scoprirete in Emilia. Esattamente, è molto interessante perché è un modello alternativo per certi versi, almeno sulla sanità, a quello lombardo, meno accentrato sugli ospedali ma più sulle strutture territoriali le altre. Invece in Lombardia si è scelto appunto un modello diverso, che comunque funziona e di questo diamo atto. Quindi. Il modello lombardo o il modello emiliano? Il modello lombardo, malgrado questo gigantismo, il fatto che adesso Formigoni si faccia avanti per comprare il San Raffaele, forse del senso che a un certo punto bisognerebbe fermarsi, ma questa è un'opinione. No, certo, insomma, l'ingresso della regione dentro San Raffaele con il buco che ha tirato Don Verzè, che ricordo che San Raffaele è una grandissima struttura dal punto di vista clinico, dal punto di vista manageriale, ricordo però, visto che qua tutti gli ascoltatori, molti ascoltatori sono bravi a criticare, ricordo che fino a due anni fa, un anno fa, Don Verzè sembrava il genio del management, dove toccava lui cresceva solo l'oro, adesso abbiamo scoperto che ha un buco che non si riesce nemmeno a ripianare e quindi viene anche commissariato. In un'ultima battuta, chi è Nicola Maria Sanese? Nicola Maria Sanese è un democristiano, fanfaniano, che ha una storia politica appunto che risale ai primi anni 70, perché arrivò in Parlamento a metà degli anni 70, è stato sottosegretario all'industria di Craxi, De Mita e Fanfani, con Fanfani anche sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, e è un uccellino della prima ora, è uno dei primi organizzatori del meeting di Rimini, e dopodiché diventa l'eminenza grigia di Formigoni e della Regione Lombardia, e sta accanto a Formigoni con il ruolo di segretario generale alla presidenza dal lontano 95. Ma perché non avete perché non avete intervistato lui? Penso che avesse nessuna voglia di parlare, diciamo che le apparizioni di Sanese si contano appunto sulle dita di una mano. È un uomo che non ha nessuna voglia, penso anche il suo ruolo da segretario generale, da tecnocrate, cioè è Formigoni ad apparire, c'è una scelta precisa in questo gioco di comunicazione, l'uomo che deve apparire è Formigoni e tutto il resto è un corollario, gli stessi assessori, quanti assessori, citami due nomi, tre, gli assessori regionali della Lombardia a memoria. No, non me lo ricordo. Ecco, esatto. Però un consigliere regionale me lo ricordo. Vabbè, allora adesso basta perché sennò. Grazie a Mariano Maugeri. Grazie anche a Geppe Oddo. Grazie a tutti i colleghi del Sole 24 Ore e degli altri giornali che fanno le inchieste, fanno il loro lavoro, fregandosene del complottismo. Quando saranno in Veneto, pubblicheranno il Veneto, ne parleremo del Veneto, ne parleremo anche dell'Emilia Romagna. Non vi preoccupate. E della Campania, della Sicilia. Per ora è tutto, rimando domani l'intervista con il professor Franco Bruni su quello che sta capitando in Europa e sulle banche europee. Auguro a voi in ascolto una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.